L'8 luglio 1920 ci fu una sollevazione nelle campagne toscane a cui presero parte ben 500.000 su 710.000 mezzadri. Il 7 agosto fu firmato un patto colonico regionale che non fu sottoscritto dalle leghe bianche che continuarono la lotta. Il 19 agosto, durante una riunione di contadini a cui partecipano delegati di 60 comuni, il segretario della Federazione Laziale Lavoratori della Terra propone di occupare le terre e di iniziare le operazioni di scasso e semina. Il 24 agosto, contemporaneamente, in 40 comuni del Lazio vengono occupate le maggiori tenute della zona di Roma, Viterbo e Frosinone. Il governo non vuole o non può intervenire, dato che è già pesantemente impiegato con i moti contro il caroviveri, come abbiamo visto, e con le agitazioni operaie. Nell'agosto e settembre del 1919 le occupazioni di terre iniziano quindi nell'agro romano, per poi estendersi a tutto il sud Italia, fino alla Sicilia, dove si verificano scontri molto violenti a Caltanissetta, a Riesi, dove vengono uccisi 7 contadini, e a Terra Nuova, dove ne vengono assassinati altri 2. Sempre nel mese di settembre, 100.000 braccianti occupano le terre di 15 feudi nel Trapanese. Poi, il 2 settembre, viene emanato il decreto del ministro dell'agricoltura Visocchi, che prevede la concessione di terreni a occupanti che si costituiscano in cooperative previo esame e assegnazione da parte di un'apposita commissione prefettizia e il pagamento di una cosiddetta equa indennità ai proprietari. L'effetto del decreto è opposto a quello voluto. Inizia infatti un'altra ondata di occupazioni che si estende a gran parte del meridione e si allarga anche alle case sfitte. A ottobre continuano le occupazioni nel Lazio, come a Ronciglione, nella zona di Tivoli. La Federterra organizza le occupazioni ad Alatri, Cassino, Capodimonte, Zagarolo ed in altre località. Ed ora ascoltiamoci la canzone Quattro Signori, nell'esecuzione di Maria Monti. Quattro signori a Parigi vanno a commerciare, dividere il bottino. La guerra han fatto, altro più non sanno, e la vittoria vuol la pace inganno. Il tribunale han confezionato di giudicare la pace imputata, e la giustizia han dimenticata, han troppa fame, han voglia di rubar. Finito giugno, pace non è fatta, in 7 mesi e più di discussione, fan fallimento, tutto il mondo scatta, gambe per aria par che debba andar. Evviva dunque la rivoluzione, la borghesia più non regnerà, il bolscevismo sta per trionfare, o dunque o popolo unito sta. La dittatura del proletariato, dopo la Russia avremo in tutto il mondo. Viva il Soviet Lenin glorificato in un gran simbolo di civiltà. E viva dunque la rivoluzione, la borghesia più non regnerà, il bolscevismo sta per trionfare, o dunque o popolo unito sta. Il bolscevismo sta per trionfare, o dunque o popolo unito sta. Con un decreto del 2 ottobre 1919 viene istituita una polizia speciale denominata Guardia Regia, che aveva lo specifico compito della repressione popolare e che era stata istruita e allenata per combattere contro le classi subalterne nelle lotte di strada. Le guardie regie saranno ben 25.000 nel giugno 1920. Carabinieri e pubblica sicurezza non erano più sufficienti ad affrontare sommosse così diffuse e di tali proporzioni, mentre l'esercito, che spesso fraternizza con i lavoratori, non è affidabile. Ugualmente comunque vengono rafforzate le forze repressive. I carabinieri, che erano 28.000 alla fine della guerra, raggiunsero l'effettivo di 60.000 nel giugno 1920. In Calabria le occupazioni e le manifestazioni raggiungono il culmine fra novembre e dicembre. Tutta Crotone insorge. A San Giovanni in Fiore viene fondata una lega a cui aderiscono 4.000 contadini. Anche in molti altri comuni calabresi si organizzano le leghe dei contadini. A marzo e ad aprile 1920 la lotta contadina si espande in tutta l'Emilia-Romagna, in Piemonte, in Lombardia e in Friuli. Lo scontro è durissimo, è molto violento, con eccidi delle forze repressive e la comparsa di squadre fasciste al soldo dei grandi proprietari. I contadini formano le guardie rosse per difendersi ed in qualche caso assaltano e danno fuoco alle case dei possidenti terrieri. Il 5 aprile, a Decima di Persiceto, in provincia di Bologna, ad un comizio organizzato dalla Lega dei Braccianti e dall'USI, i carabinieri sparano sulla folla, uccidendo 8 lavoratori e ferendone una trentina. 100.000 lavoratori partecipano ai funerali ed iniziano poi uno sciopero che si estende a tutta l'Emilia, alla Toscana, arrivando fino in Liguria e a Trieste. A Modena, il 7 aprile, i carabinieri aprono il fuoco in piazza dove si è radunata una folla di 15.000 lavoratori per protestare contro la strage di Decima di Persiceto. Vengono uccisi altri 5 lavoratori, viene proclamato lo sciopero generale a oltranza. Un gruppo di giovani riesce a entrare in una caserma e porta via alcune mitragliatrici. 3 giorni dopo, a Piacenza, ancora una volta i carabinieri sparano durante un comizio di Enrico Malatesta, cercando di colpirlo. Anche qui ci sono 2 morti e una ventina di feriti. Prefetto e questore lodano l'operato dei carabinieri. Contemporaneamente, a Nardò, in Puglia, i contadini insorgono, attaccando la caserma dei carabinieri e disarmandoli. L'esercito interviene e riesce a stroncare la rivolta. Negli scontri muoiono 3 contadini e un agente di pubblica sicurezza. Ascoltiamoci ora La locomotiva di Francesco Guccini. Non so che viso avesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse e con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli. Conosco invece l'epoca dei fatti, qual era il suo mestiere. I primi anni del secolo, macchinista, ferroviere. I tempi in cui si cominciava la guerra santa dei pezzenti. Sembravi il treno anch'esso, un mito di progresso lanciato sopra i continenti. Lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti. E la locomotiva sembrava fosse un mostro strano, che l'uomo dominava con il pensiero e con la mano. Ruggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite. Sembrava avesse dentro un potere tremendo, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite,

della grande consolatrice. La storia racconta come finì la corsa, la macchina deviata lungo una linea morta, con l'ultimo suo grido d'animale la macchina eriddò la figlia e lava, esplose contro il cielo, poi il fumo sparsi il velo, raccolsero che ancora respirava, raccolsero che ancora respirava, raccolsero che ancora respirava. Ma a noi piace pensarlo ancora dietro al motore, mentre fa correre via la macchina a vapore. E che ci giunga un giorno ancora la notizia di una locomotiva come una cosa viva, lanciata bomba contro l'ingiustizia, lanciata bomba contro l'ingiustizia, lanciata bomba contro l'ingiustizia. Le lotte per la terra hanno un andamento stagionale e quindi nell'estate e nell'autunno del 1920 le occupazioni di terre riprendono in tutto il meridione, esclusa la Sicilia, in cui il movimento rifluisce, dovendo fronteggiare anche la mafia e un numero di morti molto più alto che nelle altre regioni. Questa volta però la repressione e la lotta è ancora più dura, perché la forza pubblica è tutta mobilitata e i padroni delle terre hanno costituito le loro associazioni per reprimere il movimento. Anche in Lazio riprendono le occupazioni e le agitazioni. La Federterra risponde con un giorno di nuove occupazioni di terre in contemporanea, il 15 settembre, e in un suo manifesto scrive: abolite il caporale, abolite il mercante di campagna, lavorate meglio che potete la terra e tenete tutto il raccolto. Al nord la lotta, come già detto, ebbe come maggiori protagonisti i braccianti nel Cremonese, nel Bergamasco, nel Friuli e nella Carnia, dove si ebbero invasioni di municipi, interruzioni del telegrafo e della ferrovia. Nel Trevigiano a mobilitarsi furono invece i mezzadri, che non consegnarono la parte del raccolto destinata ai padroni. Il culmine delle lotte contadine si avrà in Emilia. Qui sono i sindacati rossi a dirigere il movimento. Nel bolognese la lotta fu durissima e si protrasse per un anno, dall'ottobre del 1919 all'ottobre 1920. In Emilia protagonisti della lotta sono i mezzadri. La Federterra si pone l'obiettivo di trasformare il contratto di mezzadria in modo che il mezzadro diventi un prestatore d'opera slegato dalla produttività della terra. Gli agrari rifiutano ogni trattativa e nel febbraio 1920 i braccianti iniziano a scioperare e i mezzadri disdicono i contratti per la scadenza dell'anno agrario. A maggio entrano in sciopero anche i boari. Da questo momento in tutto il bolognese l'unica autorità riconosciuta è quella delle leghe ed i contadini vogliono fare la rivoluzione con la presa di possesso di tutta la terra. Il 27 luglio il governo emana un decreto che requisisce i raccolti che rischiano di deperire nei campi. Ma i dirigenti socialisti frenano il movimento approvando il decreto perché dicono emanato nell'interesse della produzione. Nonostante che la prefettura è ormai esautorata e le leghe impongono ordinanze, la polizia non è in grado di reprimere il movimento, anche se in alcune località si hanno scontri con morti come il 19 ottobre al Casermone, dove le guardie regie uccidono due contadini, ne feriscono molti altri ed effettuano numerosi arresti. In Toscana ed in Umbria le lotte contadine costeranno molti morti, ma in Toscana si concludono con un patto colonico favorevole a coloni e mezzadri. La Confagricoltura cede sulle rivendicazioni settoriali ed il 25 ottobre accetta il patto con la Federterra sembra una vittoria, in realtà è l'inizio di una sconfitta. Poco dopo, infatti, iniziano le azioni fasciste squadristiche pagate dagli agrari. A Solesina, nel Cremonese, i braccianti chiedono di partecipare agli utili e alle perdite che il padrone venga remunerato solo per la sua attività direzionale e non in base alla rendita agraria. Il padronato pone un netto rifiuto a queste richieste e l'11 novembre 1920 i braccianti occupano le cascine e ne assumono la gestione. Ogni cascinale elegge un suo consiglio di cascina che dirige e amministra l'azienda. Questa situazione continua fino alla primavera del 1921. Il governo si fa arbitro di una trattativa con il padronato. Il 10 agosto viene firmato il cosiddetto Lodo Bianchi, che accetta in parte le richieste dei contadini e viene osteggiato dagli agrari, che negano le paghe ai braccianti e svendono il bestiame e gli attrezzi da lavoro. Poi si affideranno allo squadrismo fascista, che riporterà il loro cosiddetto ordine precedente. Nell'ottobre 1920 nel Bolognese i lavoratori concludono, dopo una durissima lotta iniziata 10 mesi prima, un accordo. Questo può essere considerato il capitolato colonico più avanzato in Italia nel rapporto di mezzatria. È proprio contro vittorie come questa che nelle campagne della pianura padana gli agrari iniziano a servirsi, pagandolo, dello squadrismo fascista. La lotta contadina è un movimento importante e molto vasto, che però non si coordina e non si lega mai al movimento contro il caroviveri e al movimento operaio. Ascoltiamoci ora la canzone Le 8 ore, cantata dalle Mondine di Bentivoglio. Come abbiamo detto, La Spezia fu la prima città a mobilitarsi contro il caroviveri nel giugno 1919, ma in quella città era anche situata la maggior base navale italiana. Molti marinai e artiglieri diventano anarchici, che poi, a metà aprile 1920, si ammutinano e passano le armi ai proletari. Nella seconda metà di aprile, nel compartimento ferrovieri di Pisa e Livorno, viene deciso dai ferrovieri di non trasportare più né soldati né guardie né carabinieri. Il 22 giugno a Milano, così come in molti altri centri della Lombardia e dell'Emilia, si svolgono comizi contro il militarismo. A Milano avvengono scontri con la forza pubblica, con barricate e intervento di autoblinde. Ma uno dei fatti più importanti durante il biennio rosso fu la sollevazione dei soldati a Trieste l'11 giugno del 1920, ad Ancona il 26 giugno ed a Brindisi il 29 giugno. In Italia si era consolidata da tempo una tradizione di pacifismo internazionalista, di opposizione alla guerra e contro le imprese coloniali, ispirata dai movimenti socialista ed anarchico. Durante la Prima Guerra Mondiale una parte dell'Albania era divenuta protettorato italiano e dall'inizio del 1920 vi era nato un forte movimento di indipendenza nazionale con un proprio governo e un Parlamento che avevano costituito un comitato di difesa nazionale che si batté per liberare il paese e agli inizi di giugno, dopo aver dato un ultimatum alle truppe d'occupazione italiane per lasciare il suolo albanese, con circa 5.000 guerriglieri attaccò la città di Valona, stringendola ad assedio. All'inizio di giugno, il primo reggimento d'assalto degli Arditi era in attesa a Trieste per essere imbarcato per l'Albania. Nel porto erano presenti per l'imbarco 3 piroscafi. Alcuni Arditi, che erano contro la spedizione in Albania, l'11 di giugno presero contatti con i giornalisti della redazione di Il Lavoratore, il giornale dei socialisti triestini, e con la Camera del Lavoro. Il 15 giugno il Partito Socialista e la Confederazione Generale del Lavoro proclamano la lotta con qualunque mezzo per il ritiro delle truppe dall'Albania. Si forma quindi un corteo di migliaia di donne ed operai con alla testa gli Arditi, che sfila per la città passando davanti alle caserme. Presso la caserma Rossol scoppiarono gli incidenti più gravi e ci furono molti feriti. Tra questi rimase mortalmente colpito un ufficiale. Verso la mezzanotte gli incidenti terminarono e la colonna dei militari ribelli si insediò nella città alta dove erano situati i quartieri popolari. Il giorno successivo il comando militare riuscì a far imbarcare solo una parte delle truppe, inviandole in Albania. Diversi Arditi furono in grado di far perdere le loro tracce, rifugiandosi nei quartieri popolari della città. Pochi giorni dopo, ad Ancona, l'undicesimo reggimento bersaglieri è pronto a partire per l'Albania. Un gruppo di bersaglieri prendono contatto con gli anarchici alla Camera del Lavoro e si mettono d'accordo per un'azione concordata tra soldati e la popolazione, quando il reggimento sarebbe sfilato in città per raggiungere l'imbarco. Poi però, all'alba del 26 giugno, i bersaglieri si ammutinano in caserma. La sollevazione dei bersaglieri riesce perfettamente e la caserma è in mano alla truppa. Gli ufficiali vengono imprigionati e alcuni popolani entrano in caserma, che però viene immediatamente circondata dalle guardie regie e dai carabinieri, che impediscono ogni contatto con il resto della popolazione. Inizia uno scontro a fuoco con fucili e mitragliatrici. I bersaglieri tentano una sortita con un autoblindo, ma senza successo. Intanto gli operai del porto e delle industrie entrano in sciopero. Una riunione alla Camera del Lavoro vede i socialisti per la prosecuzione dello sciopero, gli anarchici per l'insurrezione e i repubblicani che invitano la calma. Ma l'insurrezione è già in atto. Inizia la guerriglia di strada che raggiunge l'apice nel pomeriggio con scontri e saccheggi di negozi, di armi e con il disarmo di alcuni presidi militari nella periferia della città. Intanto lo sciopero si estende a tutte le Marche. Sono in rivolta anche Fano, Iesi e Osimo. I soldati ammutinati di Ancona riescono ad uscire dalla caserma armati e si uniscono ai lavoratori. Vengono occupati i forti Savio e Serima, sopra la stazione ferroviaria e la stazione radio dell'Aspio, dove viene requisita una mitragliatrice. Rimangono però in mano alle forze repressive la cittadella, la stazione, la questura, la prefettura e le caserme dei carabinieri e delle guardie regie. La resistenza degli insorti si attesta a Porta Pia, nei pressi del porto, dove vengono piazzate alcune mitragliatrici, e nei quartieri periferici. Si continua a combattere fino alla sera del 26. Le forze governative continuano a ricevere rinforzi da fuori città. Arrivano altre 500 guardie regie e 250 carabinieri. E nel porto arrivano delle cacciatorpediniere con reparti di artiglieri a bordo. Il mattino del 27 arrivano altri consistenti rinforzi di guardie regie. Le barricate di Porta Pia vengono distrutte dal fuoco delle cacciatorpediniere. Gli insorti si ritirano nel rione degli Archi e poi al Pian di San Lorenzo. Nel pomeriggio le batterie della cittadella e quelle delle cacciatorpediniere bombardano i forti in mano agli insorti e le barricate di Pian di San Lorenzo. Intorno alle 18 inizia l'attacco finale con le autoblinde. Gli insorti resteranno sulle barricate di Barriera Castelfidardo fino alla sera. L'insurrezione di Ancona finisce, 411 sono gli arrestati, poi condannati a pene durissime. I morti sono 26, di cui 7 guardie regie, 71 i feriti. Ascoltiamoci quindi Ribellarsi è giusto, dell'Assemblea Musicale Teatrale. Di rivolta per costringerci a una svolta. Ribellarsi è giusto, da un carcere, da un ghetto, da mille senza tetto. Ribellarsi è giusto, per uno che si muove tutto il mondo può guardare. È giusto, un gesto di rifiuto contro un avvenire uguale di un fascismo conosciuto. Ribellarsi è giusto, sconvolgere Milano a volte è un gesto un po' più umano. Ribellarsi è giusto, chi è schiavo, chi è banale può chiamarti criminale. Ribellarsi è giusto, se sei senza un programma forse finirai in un dramma. Però è giusto spezzare le catene dal sudore delle schiene, dal rumore di sirene. Ribellarsi è giusto. Il 7 giugno, in un comizio all'Arena Margherita a Brindisi, furono denunciate le ingenti spese sostenute dal governo per l'armamento dell'esercito, che sottraevano risorse per i lavoratori e per incitare i soldati a non partire per missioni militari di aggressione all'estero. A Pesaro, il 27 giugno, una delegazione socialista, dopo una manifestazione, si avviò a parlamentare con il prefetto. Successivamente un gruppo di persone tentò di disarmare le guardie del carcere, mentre altri gruppi andarono alla polveriera per farsi consegnare le armi. Un corteo proseguì verso la stazione ferroviaria per impedire ai treni carichi di armi di partire per l'Albania. A Senigallia, Chiaravalle, Fabriano, Macerata e in altri centri minori marchigiani si attuò lo sciopero generale. A Porto Civitanova fu interrotta la ferrovia. Vi furono scioperi e cortei a Monte San Giusto, Recanati, a San Severino furono erette barricate. A Terni venne interrotto il traffico ferroviario per bloccare le truppe inviate a reprimere la rivolta di Ancona. E il 27, durante lo sciopero e la manifestazione in piazza Vittorio Emanuele, i carabinieri spararono e ci furono 5 morti e decine di feriti. Il giorno dopo a Narni fu proclamato lo sciopero generale. I treni furono costretti a fermarsi a Orte. Un convoglio di carabinieri giunto a Tolentino trovò ostacoli nelle strade posti dagli scioperanti. Moti insurrezionali si verificarono anche nelle Marche, in Umbria e nella Romagna. A Iesi, ad esempio, la rivolta inizia il 27 sera e si protrae per 2 giorni, mantenendo il controllo della città. Il 28 a Terni e Foligno i ferrovieri sono in sciopero. A Macerata viene proclamato lo sciopero generale. A Tolentino e Porto Civitanova viene interrotta la linea ferroviaria. Rivolte insurrezionali si verificano anche a Fano e a Pesaro. A Rimini viene attaccato un convoglio di carabinieri. Moti popolari si hanno anche a Forlì, Cesena, Forlimpopoli e Cesenatico. Il 28 giugno un reparto di volontari arditi provenienti da Palermo, comandato dal capitano Nobili e da 5 ufficiali e composto da 120 militari di truppa, arrivò a Brindisi. Alle 9 di sera gli arditi furono incolonnati e avviati verso il porto per essere imbarcati sul piroscafo Molfetta. Sulla nave erano saliti soltanto 40 militari, quando, rompendo le righe, 2 arditi rifiutarono l'imbarco e, arringando i commilitoni, dichiararono la volontà di non partire per Valona. Nello stesso momento, dalla folla che aveva assistito al passaggio degli arditi e si era assepata sul molo, si erano levate grida di protesta contro l'imbarco dei militari. In breve tempo iniziarono gli scontri fra soldati, ufficiali, carabinieri e popolazione e furono sparati colpi d'arma da fuoco e lanciate bombe a mano. Gli scontri proseguirono per molte ore, sino a notte inoltrata. Per ristabilire l'ordine furono fatti intervenire i soldati del comando militare marittimo. Contro i manifestanti fu usato anche un autocarro con 2 mitragliatrici a bordo. Gli arditi ribelli iniziarono a raggiungere la campagna circostante. Per tutta la notte continuarono le fucilate, spari e scoppi di bombe. Con l'aiuto di un rimorchiatore corazzato con mitragliatrici, il piroscafo Molfetta riuscì a partire da Brindisi solo con 40 dei 120 arditi iniziali alle 23:30. I carabinieri registrarono nel loro verbale 2 morti per ferita d'arma da fuoco: Stillo Vincenzo, Manovale e Fusco Leonardo, Vetturino, e 9 feriti, di cui 1 grave. Vi furono anche 3 arresti, tra cui il segretario della Camera del Lavoro. La polizia poi fece irruzione nella Camera del Lavoro sequestrando registri e altre carte nella speranza di trovare documenti utili a dimostrare la premeditazione del conflitto. Il giorno dopo parte degli arditi ribelli si costituirono, mentre degli altri non si ebbe più notizia. In città arrivarono 300 militari, 100 carabinieri con 2 autoblindo ed una sezione di artiglieria. Per quanto la rivolta di Brindisi del 29 giugno fosse stata l'ultima delle rivolte di militari insieme alla popolazione contro la spedizione militare e coloniale in Albania, fu l'atto che contribuì a mettere la parola fine all'avventura italiana sulla costa orientale dell'Adriatico. Giolitti, il capo del governo, dichiarò che il suo governo non intendeva mandare più truppe in Albania. Il governo italiano il 2 giugno 1920 a Tirana firmò con gli albanesi un protocollo preliminare e una convenzione di amicizia italo-albanese. L'Italia rinunciò al protettorato sull'Albania, riconobbe il nuovo governo di Tirana e l'indipendenza e l'integrità del paese nei confini del 1913. Il protocollo prevedeva che le truppe italiane dovessero essere rimpatriate da Valona e dalle altre località occupate, ad eccezione dell'isola di Sasseno. Giolitti però lascia in galera gli arrestati durante le rivolte contro l'invio dei militari in Albania. Gli ammutinamenti dei soldati per non essere inviati in Albania però non sono in grado di darsi un'organizzazione che renda permanente l'esautoramento del potere delle gerarchie militari nelle caserme e permettono allo Stato di disarmare i reparti meno fidati. L'esercito comunque evidentemente non può più essere utilizzato nell'ordine pubblico. Purtroppo i moti per il caro viveri, le lotte dei contadini, gli ammutinamenti dei soldati e poi, come vedremo, le occupazioni in armi delle fabbriche da parte degli operai non si coordinano fra di loro e questo porterà alla sconfitta e all'impossibilità di dare uno sbocco rivoluzionario al movimento. Si conclude qui anche questa seconda parte dedicata al biennio rosso 1919-1920. La prossima sarà dedicata all'occupazione delle fabbriche.